Il secondo incontro di oggi, un incontro sul tema dell'informazione e delle tutele legali, basicamente come stare in piazza sia da un punto di vista del mediattivista sia dal punto di vista anche del manifestante. Ne parliamo l'avvocato Andrea Ronchi, un incontro organizzato da ZIC, un quotidiano online bolognese che è online dal 2005. Appunto nasce nel cartaceo nel 95 fino al 2003, dopodiché dal 2005 ad oggi continua ad essere un quotidiano online che si può leggere ovviamente su internet a zic.it. Partiamo un attimo dalla prima questione, ovvero come fare informazione e come far sì che la nostra informazione, l'informazione indipendente, non diventi un ulteriore strumento di repressione e che comunque il lavoro del mediattivista non vada appunto ad influire negativamente su quello che è appunto il movimento e le dinamiche sociali. Buonasera a tutti, ciao. Trattiamo qui di fronte anche a questa domanda generica di come ci si deve porre in piazza quando si utilizzano degli strumenti e dei sistemi di registrazione audio, video, fotografie e quant'altro e delle conseguenze di queste nostre registrazioni. La cosa da pensare, la prima cosa che ci viene in mente è che con Genova 2001 le modalità di stare in piazza del mediattivista sono state completamente stravolte rispetto a quella che era la situazione precedente, perché i filmati, non più soltanto quelli fatti dalle forze dell'ordine, ma anche quelli fatti dalle persone che stanno in piazza, hanno avuto una importantissima visibilità processuale e sono serviti alle volte ad assolvere dei compagni che si trovavano appunto a manifestare, e altre volte hanno portato invece la condanna delle forze dell'ordine per le violenze che hanno usato nei confronti degli stessi manifestanti. Diciamo praticamente che ormai le procure delle repubbliche, tutte, ormai nessuna esclusa, riescono ad utilizzare i filmati attraverso ormai una modalità scientifica di analisi dei filmati stessi. Vengono individuate le persone, vengono cerchiate, vengono caratterizzate dal loro abbigliamento, da un tatuaggio, da un particolare tipo di orecchino, e gli elementi così rintracciati poi successivamente possono essere utilizzati dalle forze dell'ordine o dalle procure per incolpare qualcuno di un determinato tipo di reato. Faccio soltanto un esempio di un caso che mi è successo. Le forze dell'ordine, la Digos, non mi ricordo, l'ANSI, la scientifica, faceva un filmato nel quale si vedeva un manifestante che stava imbrattando una parete. Questo aveva il volto coperto, si era appunto travisato e non si riuscì ad identificare questo manifestante nelle prime indagini. Successivamente, un compagno, in modo abbastanza imprudente, aveva pubblicato su YouTube la manifestazione e attraverso il vestiario, attraverso altre caratteristiche, questa persona qua è stata in questo modo facilmente identificato. Quindi quella che è anche un'immagine di una vicenda di piazza assolutamente neutra, tipo dei compagni che stanno sfilando in una piazza o che stanno sfilando in una via o i lavori preparatori della manifestazione. Successivamente, legati ad un altro episodio, hanno portato appunto all'incriminazione di un compagno che senza l'ingenuità del media attivista non sarebbe mai stato in questo modo identificato. Ho cercato su internet se c'erano dei vademecum di media attivisti, come spesso ci sono per quanto riguarda i militanti più genericamente intesi. Ho trovato qualcosa soltanto su indie media, anche abbastanza risalente. Comunque un vademecum fatto abbastanza bene, che in questa sede mi piacerebbe seguire come scaletta e vedere eventualmente di aggiornare con qualche elemento di esperienza personale o di giurisprudenza più recente rispetto appunto alla stesura di questo manuale che mi sembra di almeno 4-5 anni fa. Giustamente in questo manuale si dice l'attivista, il media attivista è un attivista che utilizza al posto del megafono una macchina fotografica, una cinepresa. Questo è assolutamente fondamentale, cioè nel senso non ci dovrebbe essere dilettantismo nel riprendere le manifestazioni. Chi filma le manifestazioni di piazza, vista la delicatezza che queste possono avere, deve sapere cosa sta filmando, come lo sta filmando e poi dopo avere appunto il prodotto audio-video, anche sapere come diffonderlo, dove diffonderlo e con quali modalità. Il dilettantismo in questo tipo di attività produce tendenzialmente magari delle bellissime fotografie, ma dei danni dal punto di vista processuale. E qua, questo che penso che interessi nel mio intervento. Ho già detto prima che della pubblicazione, partiamo appunto dalla pubblicazione. Non bisognerebbe mai pubblicare nel giro dell'immediatezza della manifestazione qualche cosa che possa far identificare le persone, anche se nella manifestazione non è successo niente, anche se le persone che vengono tratte nel video o nella fotografia sono in una situazione assolutamente inerme, cioè nel senso che non stanno compiendo nessuna azione, nemmeno potenzialmente delittuoso, perché appunto non si sa poi un domani queste cose come possano essere successivamente utilizzate, e tanto più non dovrebbero essere utilizzate sui canali quelli più frequentemente utilizzati come YouTube, Facebook e gli altri social network che vengono analizzati ordinariamente. In questo manuale si dice, ecco, magari pubblicatelo su Indie Media, pubblicateli su InfoOut perché sono situazioni che sono meno monitorate dalla procura. Assolutamente non vero, anzi, cioè nel senso è l'esatto contrario, cioè, mentre un network generalista è sicuramente osservato, però un filmato, una fotografia si va a sciogliere in mezzo a milioni di altri filmati e quindi magari non viene immediatamente individuato, sappiate che le pubblicazioni sui siti cosiddetti specialistici, questo comporta sicuramente l'attenzione da parte delle forze dell'ordine e quasi sempre anche l'archiviazione di quelli che sono i dati qui contenuti. Bisogna stare attenti anche a cosa si pubblica, come si pubblica. Il mio consiglio è quello che se c'è un qualsiasi tipo di dubbio, cioè nel senso c'è la volontà di pubblicare, l'autorizzazione di pubblicare magari da parte del soggetto politico che è stato il promotore della manifestazione, eccetera, se ci può essere anche soltanto da parte vostra un qualsiasi tipo di dubbio sul fatto che la pubblicazione possa produrre un danno a qualche compagno, oscurate attraverso qualche modifica dei pixel, qualche cosa. Non servirà tanto perché ormai gli strumenti poi dopo di identificazione delle persone ci consentono lo stesso probabilmente di riuscire ad identificare le persone, ma quantomeno non mettere la faccia in primo piano di un compagno che può avere dei precedenti penali durante una manifestazione, beh, è una doverosa precauzione. Dimmi tutto. Questo di solito lo dovrei chiedere io ai tecnici, a voi, cioè nel senso che mi sembra di vedere che tutte le volte che ci sono stati dei filmati dove erano stati pubblicati dei volti in un modo o nell'altro oscurati o pixelati, penso che si dica così, così sono rimaste anche nel fascicolo della procura, e quindi immagino che se il lavoro è fatto bene, Questo può consentire una sufficiente garanzia della privacy delle persone che partecipano appunto alle manifestazioni. Però possono chiederti l'originale eventualmente le forze dell'ordine se risalgono all'autore. Qua entriamo appunto al rapporto che sta tra il media attivista e le forze dell'ordine, che è un rapporto quanto mai complesso e difficile, perché se ho detto prima che il media attivista è un attivista, non si può nascondere dietro un tesserino, dietro un'apparente neutralità nel momento in cui poi dopo viene attenzionato dalle forze dell'ordine, perché è giusto che il media attivista rivendichi il suo ruolo, ma è altrettanto giusto a questo punto che le forze dell'ordine considerino il media attivista la stregua della persona che c'ha il megafono all'inizio del corteo, cioè una persona organica alla manifestazione e che si muove all'interno della manifestazione con una finalità sua propria. Facciamo una premessa, secondo me, doverosa. Macchina fotografica, telecamera, il normale accessorio che chi va in piazza per trarre immagini e filmati ha. Il primo consiglio è quello ovviamente di marcare in modo il più possibile indelebile i propri mezzi di trazione delle immagini, perché diciamo te la prendono adesso per ora, diciamo soltanto, arriva un poliziotto, ti prende la macchina fotografica, se ne va via e tu a quel punto lì, se non hai degli elementi che possono dire che quella macchina fotografica ha un segno di vernice rossa indelebile sotto, di chi è, di chi non è, rimane ovviamente l'impossibilità da parte del proprietario e del possessore della macchina di poter rivendicare indietro l'oggetto che appunto gli serve per l'attività di media attivista. Detto ciò, ci sono delle regole che ovviamente dovrebbero essere rispettate. La regola vuole che se io ho filmato o posso aver filmato dei fatti costituenti reato. Quindi immaginiamoci che io ho filmato semplicemente una carica della polizia o sono stato nel mezzo tra lo schieramento delle forze dell'ordine e lo schieramento dei manifestanti. Parte la cosiddetta carica di alleggerimento, si lanciano due bottiglie, io sono lì con la mia telecamera. A quel punto lì è assolutamente plausibile che ci arrivi uno dello scientifico, uno della Digos di fianco e dice: adesso io ho fatto il mio filmato, visto che tu hai fatto il tuo, mi dai il tuo filmato perché queste immagini che tu hai preso possono essere utili a ricostruire un eventuale episodio delittuoso. Mi dai, vediamo quali sono i passaggi attraverso i quali mi dai. La prima fase è quella dell'identificazione. Cioè, il bravo media attivista non si fa portare in questura. Quindi è sempre in piazza con o documento, come ci insegnavano i compagni 99 POS, bello nuovo, appena fatto, dove non ci sono dei dubbi che questo qua se possa essere contraffatto in qualche modo. Quindi si presenta con il suo bel documento e in questo modo si fa immediatamente identificare in piazza. Inutile opporre resistenze, inutile opporre diversivi, perché sennò l'azione differente, se tu in mano hai qualcosa di potenzialmente prezioso, è quello di essere preso e portato nel più prossimo posto di polizia. Allora invece è meglio che l'attività tutta si svolga alla luce del sole davanti ai compagni della manifestazione. Meglio sarebbe, secondo me, se il media attivista non si muovesse da solo. Perché muoversi in gruppo, più o meno organizzato, due o tre persone, uno con la macchina fotografica, uno con la videocamera, magari una persona che si occupa in modo esclusivo di raccogliere le tracce audio di quello che può essere il detto non detto delle forze dell'ordine che si stanno preparando a reprimere una manifestazione o quant'altro, sono sempre cose che sono importanti perché un solo punto di vista, un solo punto di osservazione difficilmente è utile a portare un qualche beneficio. È sempre necessario che la scena venga presa da due o più punti di osservazione. Detto questo, nella situazione ideale, il nostro mediattivista ha il suo documento e ha di fianco il suo amico, altrettanto ben documentato, che può testimoniare di tutto quello che in questo momento stanno facendo le forze dell'ordine. A questo punto la forza dell'ordine dice: dammi la macchina fotografica. No, non ti do la macchina fotografica, ti do eventualmente la schedina, che è quella che sta dentro. Anche sulla schedina, ovviamente, un ottimo segno di riconoscimento per fare in modo che quella schedina possa essere identificata soltanto in relazione ad una determinata persona. Il consiglio, ovviamente, è che il mediattivista bravo ha più schedine con sé e quando ha tratto le immagini, un filmato di qualcosa che può essere anche soltanto vagamente utile o interessante, o sospetta che sia utile o interessante, chiude la macchina, cambia la schedina, una schedina se la mette nelle scarpe, se è molto bravo una schedina la dà ad un suo amico che si allontana immediatamente dalla manifestazione, fa sparire così le immagini e si trova con una nuova schedina vergine che sarà questa oggetto di sequestro da parte delle forze dell'ordine. Detto ciò, appunto, il sequestro. Nel senso che abbiamo detto che nel momento in cui le forze dell'ordine possono ritenere che ci sia un oggetto interessante ai fini delle indagini, possono effettivamente sequestrarti la tua schedina, il rullino, quello che può essere. Non la macchina fotografica, come ho detto prima, non la telecamera, ma l'oggetto di registrazione stesso. Loro poi ti possono dire: no, ma tu hai registrato sulla memoria fissa della macchina e quindi io, per non saperne leggere né scrivere, ti sequestro tutto. A quel punto lì c'hai poco da fare e se la macchina è dotata di memoria fissa interna, c'è il diritto da parte delle forze dell'ordine di prendere visione anche di quello che è l'interno del supporto hardware senza la schedina di memoria aggiuntiva. Deve essere lasciato un verbale di sequestro, deve essere compilato un verbale di sequestro in duplice copia. Una copia deve essere data appunto al mediattivista, il quale ha la possibilità immediatamente di rivolgersi ad un legale. Allora, uno si può far assistere durante questa attività da un eventuale legale, sto pensando alle manifestazioni più grosse, quelle che possono far parte dei vari legal team che partecipano appunto alle attività di supporto nelle manifestazioni nazionali. Oppure, se questo non è presente o facilmente reperibile in loco, può in un secondo momento recarsi da un avvocato il prima possibile per chiedere che tutta la procedura di sequestro e del prossimo di sequestro sia fatta nei tempi più rapidi possibili e senza che ci siano delle, tra virgolette, manomissioni della documentazione audio-video che è stata tratta dall'attivista dotato appunto della telecamera o della macchina fotografica. Queste sono le cose che sono assolutamente necessarie. Bisogna sapere che non è soltanto un atto da parte delle forze dell'ordine, perché dopo il sequestro deve essere convalidato anche dal pubblico ministero, quindi c'è un passaggio, tra virgolette, diciamo in tribunale della vicenda del sequestro della schedina e questo passaggio appunto deve essere sfruttato nel modo migliore possibile nell'ipotesi che ci siano state delle violazioni o delle sopraffazioni da parte delle forze dell'ordine. Questo è assolutamente importante, secondo me, da far ben presente quando si viene fermati dalla gente, a gente che può essere in divisa, a gente che può essere in borghese. Nell'ipotesi in cui la gente sia in borghese, è sempre necessario che questi si identifichi attraverso il proprio tesserino di riconoscimento. Se è in divisa è la divisa che vale, se non è in divisa, appunto, deve dichiararsi agente della Polizia di Stato e far vedere il tesserino. A questo punto, con un'attività così fatta si dovrebbe limitare al minimo quelle che sono le possibilità di abuso da parte delle forze dell'ordine nei momenti di sequestro. È ovvio che se una persona non ha il documento di identità può essere portato fino a 12 ore all'interno di una caserma o di una questura. Viene lasciata la macchina fotografica su un tavolino e a quel punto lì della macchina fotografica le sorti spesso diciamo che si possono perdere, ecco, diciamo che un balordo potrebbe entrare in questura e appropriarsi della tua macchina fotografica senza che nessuno possa poi essere considerato colpevole della sparizione del mezzo. Scusa un attimo, adesso. No, te lo possono fare anche semplicemente con il loro fogliettino e il blocchettino che hanno dietro. Non è necessario, cioè il verbale di sequestro è un atto molto semplice, sottoscritto agente Pinco Pallino, qua davanti il signor Mario Rossi, ci troviamo di fronte nel mezzo della manifestazione, NOTAV, SITAV, quel che ci pare, questi è dotato di macchina fotografica che ha filmato un episodio, ma poi capito, questo qua è ancora... fino eccessivo, capito? Cioè, nel senso, si procede alla perquisizione, al sequestro di materiale che può essere interessante ai fini dell'indagine, visto che fino a 5 minuti fa c'è stata una resistenza pubblico ufficiale. Punto. Quindi molto molto semplice. Poi dopo le motivazioni del sequestro e l'eventuale autorizzazione, dopo è la fase del tribunale e ci si pensa in un secondo momento. Volevo fare una precisazione e rispondere alla domanda, visto che sono un tecnico, rispetto alla sfasatura dei volti con delle funzioni che le offuscano. Allora, rispetto al pubblicare su siti tematici piuttosto che su YouTube, ad esempio, non è tanto per garantire la sicurezza di chi è filmato, ma per garantire la sicurezza di chi le sta pubblicando. E presumo che sia per quello, magari non si capisce, e volevo fare questo tipo di precisazione. Rispetto invece alle funzioni che sfasano il volto, ci sono ovviamente delle funzioni che invertono lo sfasamento, quindi applicare più funzioni e più volte rende più difficile il tornare indietro. Un bollino nero fa perdere completamente le informazioni rispetto a quel tratto, e quindi, però, sicuramente in alcune situazioni nelle quali ci sono tantissime persone, mettere bollini neri dappertutto rende la fotografia impubblicabile. Quindi si va direttamente all'altra cosa che volevo dire, che bisogna anche capire cosa riprendere nel momento in cui si è in piazza. Cioè, in alcune situazioni è meglio riprendere piedi e busti piuttosto che riprendere ad altezza volto, banalmente, perché altrimenti poi comunque nel caso in cui si è ripreso qualcosa di interessante, si deve mettere le gran bande coprenti, perché altrimenti rischiano tutti quanti di prendersi delle denunce. E poi volevo chiederti, tu hai detto subito dopo. Il periodo subito dopo la manifestazione o attiguo alla manifestazione è meglio non pubblicare, perché c'è l'estensione cioè per quale motivo? Nel senso, Allora, prima di tutto grazie per la questione che hai fatto bene a specificare sulla sicurezza di chi pubblica ovviamente sui cosiddetti siti tematici rispetto a quelli generalisti. Anche se poi ti posso assicurare che la certezza del pubblicante non c'è mai nemmeno da altre, anche sui siti generalisti, nel senso che io sto pubblicando su un profilo Facebook qualche cosa, da una pagina con una password abbastanza ordinaria, che posso averlo fatto attraverso il computer dell'università. Ce ne vuole perché si arrivi alla dimostrazione quadrata del fatto che sia stato effettivamente io in quel momento ad utilizzare la pagina. No, beh, no, io sto parlando del nostro, alle nostre latitudini, cioè nel senso non mi sto immaginando in situazioni dove ci sono controlli complessi su tutta la rete internet e che quindi ti possono immediatamente identificare, cioè in una situazione di decorosa libertà di circolazione delle informazioni su internet, comunque c'è sempre una problematica. Io parlo da giurista, tu parli probabilmente più da tecnico, quindi hai degli elementi scientifici. Il diritto, per fortuna o purtroppo, non è una scienza, o quantomeno non è una scienza pura, e quindi siamo più, diciamo, flessibili sull'accertamento dei fatti storici. Avevi detto del perché, invece, non una specificazione sul perché non pubblicare subito. Perché magari pubblicare a mente fredda ci fa sapere se ci sono già delle indagini in corso, che tipo di indagini, su che cosa stanno puntando, e quindi potrebbe essere utile non immediatamente pubblicare, ma aspettare che la prima mossa sia da parte della procura che dice sì, c'è stata una scandalosa carica dei manifestanti. Allora, se tu magari devi mostrare l'episodio specifico della carica, lo fai con una particolare attenzione perché capisci che quello è il punto che le forze dell'ordine vogliono o sulle quali le forze dell'ordine cercano di focalizzarsi. Un po' di attenzione, un po' di prudenza. Intanto tendenzialmente preferisco dare un consiglio di maggiore prudenza rispetto a essere lascivo, perché so che poi dopo l'entusiasmo o l'avere nelle proprie mani un'inquadratura fatta bene, una fotografia che ti sembra immediatamente percettiva di una violenza da parte delle forze dell'ordine sul manifestante, ti fa dire, beh, io allora questa qua immediatamente la pubblico. Ti posso dare qualche interpretazione, cioè qualche riflessione sull'utilizzo dei filmati e delle fotografie nei processi. I processi che si basano sulle foto e sui filmati sono brutti processi che di solito si vincono, nel senso che si vincono e si porta alla soluzione dell'indagato o dell'imputato. Perché? Perché non sono soltanto le immagini a fare una storia, a fare un processo, cioè nel senso che se le forze dell'ordine insieme a quelle determinate immagini non ci mettono quel qualcosa in più che dovrebbe essere loro proprio, ovvero una ricostruzione storica di tutti gli avvenimenti, da come viene lanciata una determinata manifestazione a quelle che sono le conseguenze successive alla conclusione della manifestazione, ma ci si limita a dire ecco qua, questa qua è la fotografia, si vede Luigi con il braccio alzato, intento a colpire il poliziotto. Sì, questa è la tua descrizione dei fatti, ma potrebbe essere Luigi che in prima linea si sta per grattare il collo perché ha un eritema e che quindi, capito, in quel momento lì quel braccio alzato non era volto poi dopo a colpire il poliziotto, ma era fatto invece per grattarsi la nuca e non sono delle stupidaggini, non sono degli esempi surreali, perché spesso nelle aule di tribunale si possono anche trovare situazioni di questo genere e anche di questo genere veritiero. Faccio un esempio: andate a cercare su internet la foto della Camusso che accarezza Civati al congresso della CGIL. Cioè, tu lo fai vedere a 100 persone, per 100 persone è uno schiaffo, perché si vede benissimo, capito, la mano della Camusso sul volto di Civati, si vede lui che non so per quale motivo ha un'espressione del volto modificata. Adesso non entriamo nella facile ironia. Non entriamo nella facile ironia. Ecco, se uno fa vedere quella foto, quello è uno schiaffo. Non ci sono alternative. Non, è chiarissimo, è lampante. Se invece vai a vedere il filmato, la situazione è diversa. Però se il filmato fosse preso dall'altra parte e se il filmato fosse stato modificato e mandato ad una velocità maggiore, attenzione appunto a come vengono gestiti questi strumenti perché non, sono sempre importanti, non sono mai risolutivi, a meno che, e poi eventualmente ne parliamo in un secondo momento, a meno che non si cada in un'imboscata, ma di questo poi ne parliamo separatamente. Alla? Nella direttissima è molto difficile che si arrivi con dei filmati, nel senso che per quanto riguarda la convalida d'arresto del fermo di una manifestazione, io di utilizzi di filmati ne ho sempre visti pochi. Di solito quando a seguito di una manifestazione politica si vogliono applicare, e sto dicendo questo per quanto riguarda la Procura di Bologna, Torino so che è un po' più spiccia su certe prassi, se io devo applicare o penso di applicare una misura di qualsiasi tipo, dal carcere all'obbligo di firma, passo attraverso una fase più complessa, passo attraverso il GIP e non lo chiedo direttamente in direttissima. Tecnicamente nulla vieta che possano essere portate in direttissima dei filmati o delle fotografie. Non è minimamente vietato, saranno allegate alla relazione di servizio. È un'attività che può farsi. Difficilmente è stata fatta qua a Bologna. Anzi, per quanto mi riguarda, io non ho mai visto qua a Bologna delle situazioni di questo genere. So che a Roma Torino l'hanno fatto. Vogliamo continuare sempre sulle questioni. Cioè, sulla questione del pubblicare immediatamente, per esempio, il 12 aprile a Roma, il ragazzo che abbracciava la ragazza a terra, quelle foto sono uscite il giorno dopo, il primo giorno era uscita la stessa foto di lui con gli occhialetti che lanciava una bottiglia, quindi c'è cioè, proprio il pubblicare o meno una certa immagine ti fa completamente cambiare anche la posizione del manifestante. Nella prima immagine stava lanciando una bottiglia verso il cordone. Nell'immagine il giorno dopo stava proteggendo la ragazza a terra dalle manganellate, quindi il pubblicare fase di scontri nell'immediato, specialmente adesso con gli smartphone direttamente dal corteo, magari fotografi una persona che nel momento è tranquilla, però 20 minuti dopo sta facendo uno scontro, anche se è bardata, però c'ha le scarpe riconoscibili, quindi esatto. Ma consigli per quanto riguarda, secondo me, la gestione dell'attività del media attivista all'interno del corteo sono poi ancora poche, cioè nel senso che a mio avviso do un consiglio da fruitore delle immagini. Meglio che siano immagini vaste rispetto a che siano immagini estremamente specifiche, cioè usate più il grandangolo che il teleobiettivo. Uno, perché con la qualità che ormai hanno le immagini digitali si riescono a fare dopo dei lavori cosiddetti in post-produzione che sono sufficienti anche a poter cogliere i dettagli. Due, perché comunque è più utile spesso avere la storia, la narrazione di quello che succede all'interno di una manifestazione che il riuscire ad identificare un singolo gesto che non sempre ci va a spiegare di una eventuale colpevolezza o come scriminante per qualcosa che poteva essere fatto da parte del manifestante. Un'ultima cosa che penso da dire per quanto riguarda le questioni di piazza è quella che i poliziotti si possono filmare, si può filmare tutto quel che ci pare, si possono filmare i volti, possono filmare i primi piani. Le limitazioni, lo sapete meglio di me, sono quelle delle zone militari o all'interno delle caserme, delle questure, appunto, però deve essere assolutamente specifico. Diciamo che in linea di massima la ripresa audio-video di quello che accade in una manifestazione, dal singolo poliziotto al singolo manifestante al primo piano di un manganello, eccetera, è sempre tutto assolutamente legittimo. Ultimi due consigli. Se si è ripreso qualcosa che non si doveva riprendere, si deve cancellare immediatamente. Proprio non ci si deve nemmeno pensare. Alle volte anche rischiando di spendere 10 euro di schedina e distruggendola proprio fisicamente. Attività di distruzione che tecnicamente potrebbe essere fatta anche davanti al poliziotto che ti sta sequestrando in quel momento la schedina. Lì è facile che dopo ad un certo punto no, cioè, da una parte rischi, come posso dire, immediatamente se non hai il testimone di fianco di essere attenzionato in modo diverso dalle forze dell'ordine. Dall'altra parte non mi sentirei di escludere io poliziotto ti dico dammi la schedina, tu apri la macchina fotografica, tiri fuori la schedina e la spezzi prima di dargliela. secondo me, una denuncia il mediattivista, così se la prende di sicuro. Poi dopo sta la sua capacità di martirio per salvare il manifestante che magari è stato preso mentre compiva un gesto non ortodosso. Ecco, lì sta nel bilanciamento, esatto, se il mediattivista si deve immolare, se non è stato bravo a cancellarla subito, immediatamente, a riformattare immediatamente la schedina o a distruggerla da solo e si è fatto beccare con le immagini dentro l'armamentario, quello lì è un rischio che deve essere comunque preso in considerazione. Un'ultima cosa, se viene appunto, devo dire qualcosa, devo rilasciare dichiarazioni, devo specificare, no, alle forze dell'ordine quando si è in piazza si risponde sì, no, per monosillabi, si sbaglia il meno possibile in questo modo e non, sì, non c'è niente da far mettere a verbale, mi oppongo, non ritengo che sia giusto, cioè si perde soltanto assolutamente del tempo e si danno delle scuse per essere accompagnati in questura. Ci abbiamo 10 minuti scarsi, se ci sono altre domande. Io ho notato che la polizia ha un'attenzione sempre maggiore e più particolare per gli oggetti informatici. Vuol dire che sequestra telefoni, schede di memoria, ma sempre più di frequente, anche quando non c'entra niente. E quindi anche le abilità da parte dei tecnici chiamati CTU, da parte della polizia, sono aumentate, stanno migliorando e ci sono corsi anche qui, anzi uno dei corsi che si fa qua a giurisprudenza, anzi uno dei corsi di informatica forense, perché si chiama così, si fa qua a giurisprudenza a Bologna e un'altra a Catania, ce ne sono due in Italia. E quindi mi andava di dare una precisazione rispetto al formattare la schedina. Il formattarlo mediante la schedina non serve a niente. Ecco questo. Sì, no, non, ci sono degli strumenti. Se riuscite a portarla a casa e dovete cancellarla, ci sono degli strumenti per cancellarla seriamente, però cercate su internet cancellare seriamente una schedina. Esatto, perché altrimenti una formattazione è soltanto per imbranati, non per informatici forensi. No, purtroppo io utilizzo i termini, non avendo le vostre capacità, sì, il termine formattare lo intendevo nel senso più a tecnico possibile. So che se uno ci fa 35 passaggi sopra con non so quale tipologia di programma riesce effettivamente a rendere molto difficile il recupero dei dati, ma negli altri casi di utilizzo di software che sono facilmente reperibili su internet e utilizzati in modo domestico, quelli non servono praticamente a niente. Quando intendo formattare intendo avere proprio un sistema di distruzione di quelli che sono i singoli pixel contenuti all'interno della schedina. Rispetto all'interesse che c'è da parte delle forze dell'ordine per il mondo dell'informatica, è evidente, e mi vengono due riflessioni su questo punto. Tenete presente che chi fa le leggi, il nostro legislatore, non ha ancora approfondito minimamente la problematica dei delitti e dei crimini su internet, nonostante un aumento vertiginoso di quelli che sono i fenomeni delittuosi che vengono analizzati nelle aule dei tribunali. Faccio degli esempi che con movimenti politici c'entrano ben poco. Io penso soltanto a quella che è l'utilizzo di materiale pedopornografico e di come le analisi su questo settore qua della pedopornografia hanno fatto fare dei salti in avanti grandissimi da parte delle forze dell'ordine per quanto riguarda il controllo di siti specialistici, chat e altri sistemi, appunto per veicolazione di file, informazioni e quant'altro. Fino ad arrivare appunto alle definizioni di associazione delinquere virtuale, che è una tematica assolutamente nuova, che se può, penso che non ci sia dubbio da parte di nessuno di noi trovare una giustificazione per chi commette dei crimini così orrendi come la pedopornografia. Dall'altra parte, nel momento in cui una persona si trova a far veicolare delle informazioni, a far veicolare delle immagini, a esercitare il diritto costituzionale proprio alla libertà di stampa, alla libertà di pensiero e quant'altro, si può trovare invischiato in situazioni relative appunto a potenziali associazioni a delinquere. Faccio l'esempio appunto quello che è più recente, quello di Anonymous, dove c'è stato un discreto dibattito, per ora il processo si deve ancora tenere, si è definita soltanto la fase cautelare e nella definizione della fase cautelare è stato comunque è passato l'istituto giuridico dell'associazione a delinquere virtuale anche nei confronti di soggetti che, appunto, come gli stessi militanti di Anonymous, o se militanti si possono chiamare, non fanno altro che portare alle estreme conseguenze quelli che sono diritti, tra virgolette, borghesi della libertà di pensiero, della libertà di stampa, della necessità della trasparenza più ampia da parte dello Stato nei confronti dei cittadini e quant'altro. E perché questo? Perché si è detto che comunque anche attraverso una campagna volta a creare la massima trasparenza, eccetera, il potenziale utilizzo di mezzi che possono creare un danno, come bloccare un altro sito internet, mandare un virus o fare cose di questo genere, seppur funzionale alla realizzazione di un diritto costituzionalmente tutelato, è di per sé sufficiente a creare delle ipotesi delittuose e conseguentemente, se tante persone insieme possono ragionare su ipotesi delittuose a vasto raggio, quella diventa immediatamente un'associazione a delinquere. Con tutto il problema che può sorgere nel momento in cui, e qua torniamo al discorso dei siti specialistici, persone magari fanno una semplice pubblicazione su un sito che è così attenzionato dalle forze dell'ordine per poter diventare la base di una successiva appunto associazione delinquere. Cioè c'è questo sito, faccio delle ipotesi così molto, molto surreali, ma per cercare di capire se queste cose in un modo o nell'altro possono poi trovare un riscontro nella realtà. C'è un sito, in questo sito qua vengono pubblicate delle immagini che sono volte a far vedere quelle che sono le violenze poste in essere dalla polizia, foto su foto su foto, e ad un certo punto qualcuno dice: ah, ma guarda che questa qua è un sito internet, è un'associazione delinquere volta a diffamare le forze dell'ordine. E quindi il singolo militante che decide di postare all'interno di un sito internet una foto di un agente di polizia che manganella un manifestante, partecipa in un modo o nell'altro ad un'associazione più vasta volta, capito, alla diffamazione e all'oltraggio delle forze dell'ordine. Qua la dico e qua la nego. Secondo me nei prossimi 10 anni un processo di questo genere lo vedremo. Non mi sento di escluderlo a priori una situazione, una possibilità di questo genere. E non valga, ad esempio, perché anche qua ci sono state diverse giurisprudenze sempre sui reati informatici, lo scindere in diversi siti diverse condotte che possono essere potenzialmente delittuose. Cioè, nel senso che io, se in un sito pubblico le foto, nell'altra faccio i commenti, non è questo sufficiente nell'ambito dell'indagine a poter escludere a priori l'esistenza di un'associazione a delinquere, cioè l'utilizzo di reti, l'utilizzo di blog, l'utilizzo di siti internet più o meno aperti dove le persone possono pubblicare immagini. È argomento estremamente delicato perché il conflitto nel momento in cui si sposta dalla piazza alla rete dovrebbe avere ben presente quelle che sono le regole anche della rete, quindi postare una foto può comportare tante tante cose positive, ma alle volte tante tante cose negative. Sì. Se c'è una situazione dove ci sono degli scontri di piazza, beh, la difesa legale è la Beh, stessa. sono Cioè, pacifici, quello può capitare, diciamo che tendenzialmente se le persone si trovano all'interno di una manifestazione nei pressi immediati degli scontri, ma tu te ne stai con la tua bella telecamera in mano, tendenzialmente, tranne le dovute eccezioni, una anche qua davanti, dovrebbero essere tutte persone che ne riescono ad uscire senza le ossa rotte. Però ci sono persone che, capito, si trovano a dover affrontare dei processi esclusivamente perché noti alle forze dell'ordine, presenti sul posto e ad una prima identificazione sommaria, capito, era altresì presente il noto Mario Rossi. E quindi il noto Mario Rossi magari il processo se lo deve fare. Poi sarà compito del giudice andare a vagliare nell'ambito del processo le singole condotte che il noto Mario Rossi ha fatto e si vede che in quel momento il Mario Rossi è stato soltanto con la telecamera in mano. Poi se mentre ha la telecamera in mano e c'è un poliziotto a terra, 50 compagni che ci stanno sopra che lo massacrano di botte, questo qua con la telecamera urla, dai, dai, spingi, menalo di più, beh, a quel punto lì questo non, diciamo che abbiamo superato quello che è il limite proprio del media attivista, ecco, cioè siamo in una evidente attività quantomeno di concorso, ecco. Buono, se non ci sono domande, chiudiamo qua che abbiamo l'ultimo incontro su licenze Creative Commons. Grazie.